sarà la bella giardiniera. E ragazza, sentite, perdonate, io non sapevo e compatisco. Forse anch'io quella son, qua girerò la mano al contino dei fiori. Dimmi che sento, il contino è lo sposo, e sarà vero, un nome è giunse poco fa. Se lo vedessi quanto è vago e gentile, occhio io non reggo, io mi sento morire. Tu maledisci, che mai ti torna un fiero improvviso dolore. Idol mio, men vuol ardargli aiuto.